Canto XIII della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto XIII. Non era ancor di là nesso arrivato quando noi ci mettemmo per un bosco che da nessun sentiero era segnato, non frondi verdi, ma di color fosco, non rami schietti, ma nodosi e involti, non pomi veran, ma stecchi con tosco, non anzi aspri sterpi, né sì folti, quelle fiere selvagge che in odio hanno tra cecina e corneto i luoghi colti. Quivi le brutte arpie lor nidi fanno che cacciar delle strofa dei troiani con tristo annunzio di futuro danno. Ali hanno late e colli e visi umani, pie con artigli e pennuto il gran ventre, fanno lamenti in sugli alberi strani. E il buon maestro, prima che più entre, sappi che sei nel secondo girone, mi cominciò a dire, e sarai, mentre che tu verrai, nell'orribil sabbione. Però riguarda ben se vederai cose che daran fede al mio sermone. Io sentia già d'ogni parte trar guai, e non vedea persona che il facesse, perch'io tutto smarrito m'arrestai. Io credo, ch'ei credette ch'io credesse, che tante voci uscisser tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse. Però disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'este piante, di pensier cae si faran tutti monchi. Allor porsi io la mano un poco avante e colsi un ramicello d'un gran pruno. E il tronco suo gridò, perché mi schiante? Da che fatto fu poi di sangue bruno, ricominciò a gridar, perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietate alcuno? Uomini fummo, ed or sen fatti sterpi. Ben dovrebbe essere la tua man più pia, se state fossimo anime di serpi. Come d'un stizzo verde che arso sia, dall'un de capi, che dall'altro geme, e cigola per vento che va via, così di quella scheggia usciva insieme parole e sangue, ond'io lasciai la cima cadere e stetti come l'uom che teme. S'egli avesse potuto creder prima, rispose il savio mio, anima lesa, ciò ch'ha veduto, pur con la mia rima, non averebbe in te la man distesa. Ma la cosa incredibile mi fece indurlo ad ovra ch'a me stesso pesa. Ma dilli chi tu fosti, sì che invece d'alcuna ammenda tua fama rinfreschi nel mondo, su dove tornargli lece. E il tronco. Sì col dolce dir m'adeschi, chi non posso tacere, e voi non gravi, perché io un poco ragionarmi inveschi. Io son colui che tenni ambo le chiavi del cuor di Federigo e che le volsi, serrando e disserrando sì soavi che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi. Fede portai al glorioso Uffizio, tanto ch'io ne perdei lo sonno e i polsi. La meretrice, che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti, morte comune e delle corti vizio, infiammò contra me gli animi tutti, e gli infiammati infiammarsi augusto che i lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Per le nuove radici desto legno vi giuro che giammai non ruppi fede al mio signor che fu d'onor si degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia che giace, ancor del colpo che n'invidia le diede. Un poco attese, e poi, «Da che si tace?» disse il poeta a me, «non perder l'ora, ma parla, e chiedi a lui se più ti piace». Ond'io a lui, «Dimandal tu ancora di quel che credi che a me soddisfaccia, ch'io non potrei, tanta pietà m'accora». Però ricominciò, «Se l'uom ti faccia liberamente ciò che il tuo dir prega, spirito incarcerato, ancor ti piaccia di dirne come l'anima si lega in questi nocchi, e dinne, se tu vuoi, s'alcuna mai da tai membra si spiega». Allor soffiò lo tronco forte, e poi si convertì quel vento in cotal voce: «Brevemente sarà risposto a voi. Quando si parte l'anima feroce dal corpo, ond'ella stessa si è disvelta, mi nostra manda la settima foce. Cade in la selva, e non le parte scelta, ma là dove fortuna la balestra, qui vi germoglia come gran dispelta. Surge in vermena ed in pianta silvestra. L'arpie, pascendo poi delle sue foglie, fanno dolore e dal dolor finestra. Come l'altre, verrem per nostre spoglie, ma non però ch'alcuna sen rivesta, che non è giusto aver ciò quom si toglie. Qui le strascineremo, e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi, ciascuno al prun dell'ombra sua molesta». Noi eravamo ancora al tronco attesi, credendo ch'altro ne volesse dire, quando noi fummo d'un romor sorpresi, similemente a colui che venire sente il porco e la caccia la sua posta, ch'ode le bestie e le frasche stormire. Ed ecco, due della sinistra costa nudi e graffiati fuggendosi forte che della selva rompieno ogni rosta. Quel dinanzi, «Ora accorri, accorri morte!» E l'altro, a cui pareva tardar troppo, gridava, «Lano, sì non fur accorte le gambe tue alle giostre del toppo!» E poi che forse li fallì alla lena, di sé ed un cespuglio fe un groppo. Di rietro a loro era la selva piena di nere cagne bramose correnti, come veltri ch'uscisser di catena. In quel che s'appiattò miserli denti, e quel dilaceraro a brano brano, poi sen portar quelle membra dolenti. Presemi allor la mia scorta per mano, e menommi al cespuglio che piangea per le rotture sanguinenti in vano. «O Jacopo», dicea, «da Sant'Andrea, che t'è giovato di me fare schermo? Che colpa ho io della tua vita rea?» Quando il maestro fu sovresso fermo, disse, «Chi fusti che per tante punte soffi col sangue doloroso sermo?» E quegli a noi, «O anime che giunte siete a veder lo strazio disonesto, care mie frondi sì da me disgiunte, raccoglietele al piè del tristo cesto. Io fui della città che del Battista cangiò il primo padrone, ond'ei per questo sempre con l'arte sua la farà trista. E se non fosse che sul passo d'Arno rimane ancor di lui alcuna vista, quei cittadin che poi la rifondarno, sovra il cener che datti la rimase, avrebber fatto lavorare indarno. Io fei giubbetto a me delle mie case». Fine del canto 13.